Che legge che viene generata, che sorte venuta, tirata, spietata, spietata. A chi mi condanna, a chi mi condanna, non ho mai condanna, barbaro cuore, barbaro cuore. Che legge che tiranna, che sorte spietata, che sorte spietata. Chi mi condanna, un'anima ingrata, barbara cor, ingrata, spietata, che tiranna, che mi condanna, un'anima ingrata, un barbaro cor, un barbaro cor. Crudele da giro, a mezzo di questo silenzio, molesto, misero, misero amante, è troppo dolor, è troppo, è troppo dolor. Condanna,